Radio 24. Libera la voglia di fare. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è perfetta, il programma di Radio 24 che ogni domenica vi ricorda di fare a meno del multitasking, la più grande fregatura che sia stata inventata contro di noi. Ma questa domenica è una domenica speciale, noi veniamo dalla giornata dedicata alla riflessione sulla violenza contro le donne. È una giornata, ma in realtà tutti i giorni le nostre cronache ci raccontano episodi di maggiore o minore intensità che riguardano la violenza sulle donne, donne uccise, donne sequestrate per 10 anni dai loro uomini, il caso recente in Calabria, donne che subiscono violenza sui social network. Io vorrei parlarne subito con Francesca Sforza della Stampa, che proprio sul suo giornale venerdì scorso ha pubblicato una bella intervista alla presidente della Camera, Laura Boldrini. Allora, buona domenica Francesca Sforza. Che cosa è successo a Montecitorio sabato 25 novembre? Buona domenica a voi. È successa una cosa direi storica, perché è la prima volta che l'aula di Montecitorio si è aperta all'ascolto delle donne vittime di violenza, ma anche attiviste impegnate a raccontare storie di riscatto. La presidente Boldrini ci raccontava che fino all'ultimo ci sono state richieste per accreditarsi, tanto che all'inizio erano previsti 630 posti, tanti sono gli scranni di Montecitorio, e invece sono arrivate oltre più del doppio di richieste, quindi neanche uno strapuntino libero in tutta Montecitorio in cui sono stati allestiti dei maxi schermi. Un'importante decisione quella, secondo me, della presidente Boldrini da un punto di vista simbolico. Lei durante questa legislatura ha fatto vari gesti simbolici, ricordiamo il drappo rosso dopo l'uccisione della Sara di Pietrantonio, ricordiamo la bandiera a mezz'asta ogni 8 marzo per ricordare che appunto c'è ancora molto da fare sul cammino dell'emancipazione femminile, gesti simbolici che però sono anche un po' disturbanti, se vogliamo, in questo loro, anche in questa loro capacità di disturbare l'opinione pubblica, sono però forti, importanti, e senza di quelli spesso, diciamo, l'arretratezza culturale del nostro paese viene consolidata. No, i simboli sono importantissimi, e anche le giornate servono appunto a svegliare un po' le coscienze e a ricordare. Però è vero quel che dice la Presidente della Camera Laura Boldrini, e io mi sento di condividere totalmente il suo pensiero: l'opinione pubblica femminile in Italia è troppo debole. Questo dipende dal fatto che sono poche le donne che pesano, che fanno opinione, che possono dire di essere ascoltate in silenzio? Ecco, come lei ricordava, come la Presidente ricordava, non basta essere donna, appartenere al genere femminile per considerarsi, diciamo, impegnate, ma bisogna metterci la faccia, bisogna entrare davvero nel dibattito pubblico. Ed è vero, la nostra opinione pubblica femminile è spesso poco assertiva, è spesso così, tende un pochino ad accontentarsi. Allora, noi sappiamo anche molto perché questo avviene, perché i giornali, i media, le televisioni sono in generale a guida maschile e quindi sappiamo, Maria, penso che forse tu meglio di tante di noi, quanto ogni volta bisogna uscire dal recinto, no? E bisogna uscirci. Anzi, con... siamo piuttosto, diciamo, fortunate, perché tu sul tuo giornale, sulla Stampa, hai avuto un largo spazio per parlare di questo tema, e io ho potuto commentare in tutte queste settimane i casi sollevati da prima intorno a Harvey Weinstein, certo. E poi successivamente con commenti sul messaggero che, come no, che aiutano a tenere vivo il dibattito. Però la verità è che da un lato le donne non vengono prese sul serio, e non vengono prese sul serio per prima dalla politica, lo dice anche Laura Boldrini, i politici maschi non si spendono abbastanza, e in questa legislatura le donne sono solo il 30%, e aggiungo io, non mi sembrano nemmeno molto motivate sul tema delle violenze, forse lo considerano vecchio femminismo, sbagliando, perché abbiamo casi tutti i giorni di violenza sulle donne. Sì, cioè probabilmente la tendenza ad associare la vittima di violenza con il vittimismo, laddove sono due cose molto diverse, perché una vittima che vuole essere ascoltata non sta facendo del vittimismo, ma sta appunto chiedendo ascolto, e in quel momento mette già in atto una forma di resistenza alla violenza subita e anche di resilienza. Per cui io davvero credo che tutte queste occasioni che insomma sono poi sono, si traducono in cerimonie, in celebrazioni, debbano essere davvero delle occasioni di riflessione importante, ed è bene secondo me che siano segnate da iniziative un po' plateali. Grazie Francesca Sforza, grazie, giornalista della Stampa, e buona domenica. E dopo Francesca Sforza è il momento del nostro agente provocatore, un giornalista, anche lui, Aldo Cazzullo. Metti via quel cellulare, è il nuovo libro di Aldo Cazzullo e dei suoi figli, ed è un dialogo tra un genitore preoccupato del fatto che i figli abbiano una vita molto avvolta dai loro smartphone, e i figli che replicano e dicono: ma guarda che più o meno quello che facevano i tuoi genitori con te quando eri piccolo, ti mettevano per un po' davanti alla TV. In questo libro Aldo Cazzullo il tema enorme, grandioso, è il rapporto delle nuove generazioni con i social media, ma in un giorno come quello del il 25 novembre, il giorno della violenza, in cui si ricorda che cosa significa la violenza contro le donne, che ruolo potrebbero giocare le nuove tecnologie nell'aiutare a far capire alla parte maschile del mondo che la parola rispetto ha un contenuto, non è soltanto una parola vuota? Purtroppo, Maria, le nuove tecnologie spesso hanno peggiorato la situazione. L'altro giorno alla presentazione di Metti via quel cellulare è venuto un agente della polizia postale, il quale mi ha raccontato che oggi la prova d'amore che molti ragazzini chiedono alle loro ragazze è una foto intima, che però molti giovani uomini non resistono alla tentazione di pubblicare online per farsi belli con gli amici, o a volte per vendetta dopo che la fidanzatina li ha lasciati. È solo uno dei tanti esempi di come la rete possa diventare un metodo per gli uomini per fare del male alle donne, per vendicarsi di un no o di un basta, di un rifiuto o di un abbandono. In questo caso il padre o la madre non hanno nessuna capacità di influenza, semplicemente nell'indicare, come si faceva un tempo, ciò che è bene e ciò che è male. Non c'è dubbio che però fanno molta fatica i genitori a entrare nel mondo del cellulare, dei social, della rete, perché ogni ragazzino lo difende in modo molto riservato. Allora cosa fanno molte mamme? Cercano di proteggere la figlia andando appunto alla polizia postale a dire: rimuovete quella foto. E questa gente mi diceva: noi scriviamo a questi padroni della rete, i quali stanno in America e neanche ci rispondono, e poi è molto difficile bloccare una foto che diventa appunto virale, parola orribile che evoca virus, contagio, malattia. Anche se convinci il social network a rimuoverla, comunque ormai è stata postata, twittata, linkata, condivisa. Certo, la rete non possiamo farne a meno, la dobbiamo rendere migliore, la dobbiamo rendere più umana, dovremmo cercare di usare i social per convincere A, i ragazzi a rispettare le ragazze, e B, le ragazze a tenersi da conto, a non sottovalutarsi mai, perché loro sono la cosa più bella che c'è nel creato e devono volersi bene. Aldo, ti chiedo un attimo di pazienza, noi torniamo tra pochissimo. Nessuna è perfetta. Eccoci di nuovo a Nessuna è perfetta, continuiamo a parlare con l'agente provocatore di questa domenica, Aldo Cazzullo. Aldo, in queste settimane si è molto parlato di molestie, ma come si fa a distinguere tra violenza vera, che riesce a essere devastante per chi la subisce, e un avance? Tu, come uomo, che criterio adotti? Ti capita di pensare, oddio, questa stagista non la invito a bere un caffè perché sennò chissà cosa pensa? Ah, guarda, ad esempio, mi è capitato di dare una mano a un'amica di mia figlia che ha veramente molto giovane, che ha fatto un breve stage al Corriere della Sera, e tanti colleghi mi dicevano: guarda, questa ragazza è veramente in gamba, però io non ho osato avvicinarla perché poi potevano pensare, ecco, questo ci sta provando, le sta dando fastidio. Beh, poi tu hai lavorato lungo al Corriere, sai che è un ambiente da questo punto di vista di galantuomo, è una cosa di cui io vado abbastanza fiero, mi metti di lavoro confermo totalmente, cioè. Esatto, però mi rendo conto che il problema c'è, perché è chiaro che un'avance magari sgradita non può essere messa sullo stesso piano di un'aggressione sessuale, è vero. Ci sono dei limiti che sono dettati dalla buona educazione e dal buon gusto, però ci sono anche degli strumenti giuridici. Ad esempio, il reato di stalking è stato introdotto di recente ed è servito a evitare delle vere e proprie persecuzioni. Non so, leggevo oggi un'intervista di Ornella Muti a Vanity Fair, in cui Ornella Muti raccontava di quando da ragazzina saliva, una delle donne più belle che siano mai esistite, saliva sui mezzi pubblici a Roma, e le signore, la popolare, la facevano sedere: siediti tu, così nessuno ti dà fastidio. Però quando lei invece si ribellava al maschio che le metteva le mani addosso o che faceva finta di niente, allora molto spesso i passeggeri si schieravano con il molestatore, non con la molestata. In Turchia c'è un'associazione di giovani donne che hanno come simbolo lo spillone, sì, che lo portano sempre con sé per insegnare l'educazione ai maschi che non hanno ancora imparato a rinunciare alla mano morta. È un confine che ogni volta dobbiamo cercare di spingere un po' più in là. Intanto che il fatto che se ne parli è già secondo me importante e significativo. Trovare il coraggio di denunciare è fondamentale. Io credo che il problema sarà risolto in due modi, sarà migliorato in due modi: un'evoluzione culturale da parte degli uomini e anche l'ascesa delle donne. Quando ci saranno più donne al potere anche nell'industria dello spettacolo, che oggi è ancora molto maschile, allora questi problemi non dico che saranno risolti, ma ce ne saranno di meno. Ecco, in conclusione, e per tornare al tuo libro Metti via quel cellulare, consiglio daresti alle mamme che stanno seguendoci qui a Nessuna è perfetta, e che hanno figli adolescenti, ragazzi e ragazze? Fino a che punto può spingersi il controllo? Fino a che punto è giusto che diano un'occhiata ai cellulari dei loro ragazzi? Ma guarda, io i cellulari dei miei figli non li guardo mai, ti dico la verità, può darsi che sbaglio, però sono geloso del mio e non mi permetterei di andare a guardare nel loro. Il consiglio che do è parlarsi, guardarsi negli occhi, uscire da questa virtualità per cui ci si parla via WhatsApp con le faccine, anche tra vicini di banco, anche tra mamma e figlia, tra padre e figlio, anche quando si è in casa. Guardarsi negli occhi e parlarsi, mamme e figli, nonne e nipoti, zie e nipoti, anche il ruolo delle nonne e delle zie è molto importante. Questa Io sono molto fiera vita. Del mio ruolo di zia di Dario e Olivia, i figli di mio fratello, hai ragione. Ma sì, perché molto spesso dalle zie arriva anche un'educazione sentimentale, arrivano degli stimoli culturali, un ruolo molto importante. E poi l'amore a cerchio di vita tra nonni e nipoti, stupendo, anche perché questi racconti non sono noiosi. Sono molto utili a ragazzi che stanno crescendo con il ritornello nelle orecchie: siete la prima generazione che starà peggio dei nonni, peggio dei padri, e non sanno che i nostri padri, i nostri nonni, le nostre nonne hanno fatto dei sacrifici enormi. Oggi non riusciamo neanche ad avere idea. Quindi, insomma, parlarsi di più, dialogare. A me il libro è servito, i ragazzi usano il cellulare un po' meno, un po' meglio, e io ho capito meglio le loro ragioni. Grazie ad Aldo Cazzullo e buona domenica. Grazie Maria, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici in particolare. Grazie. È il momento della nostra Sunday Girl. I'm a girl from a lonely street, cold as ice cream, still as sweet. Buona domenica a Francesca Comencini, la regista di Amori che non sanno stare al mondo. È il suo ultimo film nelle sale dal 29 novembre e ci sembra importante parlare di un film che racconta un amore in maniera un po' ossessiva, perché in questa puntata, Francesca Comencini, noi stiamo molto ragionando attorno a quello che significa il 25 novembre, la data che è stata appena celebrata, giornata che cerca di ricordare che cosa significa la violenza contro le donne. E le donne spesso si infliggono violenze da sole con amori ossessivi. Sì, diciamo che allora in qualche modo, anche se sembrano temi diversi, e lo sono per fortuna, il tema appunto della violenza e il tema dell'amore, della sua costruzione, dei suoi ruoli, però è interessante talvolta analizzarli insieme, perché molto spesso noi vediamo che delle forme di violenza, adesso proprio sto uscendo completamente dal tema del mio film, che non parla assolutamente di questo, però nascono dentro qualcosa che viene chiamato e forse in parte vissuto come amore. Quindi il sogno d'amore, la costruzione e l'ossessione, anche come diceva lei, amorosa, può albergare, anzi forse indissolubilmente, nel trattare il tema di una forma di violenza degli uomini contro le donne, andrebbero decodificati alcuni meccanismi che noi attribuiamo all'amore. E la protagonista del film, Claudia, che tipo di rapporto ha con l'amore? Perché in questo film si parla di una storia d'amore finita. Sì, allora diciamo che il mio film è proprio un racconto ironico e disperato al tempo stesso, un film che cerca, spero di esserci riuscita, di far ridere e di commuovere insieme. Parla di una cosa molto precisa, cioè della fine di un amore in un momento della vita in cui ci si avvia a una fase dell'età che non è proprio più la giovinezza, cioè in cui ti cominci a chiedere se ci sarà un prossimo amore, come sarà, in cui alcune certezze vacillano, perché parla anche del modo di invecchiare differente degli uomini e delle donne, di come si fanno i lutti amorosi e tutto questo. E lei è una donna che è completamente passionale, eccessiva, però non rinuncia mai a esprimere la sua soggettività. Detta in parole un po' più grossolane, ad avere l'ultima parola. E quindi questa cosa, che è una cosa che lei afferma giustamente come un modo di essere, di non cedere dentro la sottomissione, la devozione nei confronti, seppure di un amore grandissimo, la porta a essere un po' vissuta dall'uomo di cui lei è innamorata come un po' iperreattiva, diciamo. Faticosa. Cioè, questa Claudia sa che forse potrebbe recuperare il rapporto con quest'uomo se accettasse di cambiare un po' se stessa, di diventare un po' geisha. Gli uomini direbbero di essere più femminile, ma non lo fa. E perché? Sì. Perché non si cambia mai, questo anche un po' lo capiamo. È una donna che è figlia di una generazione, figlia di un modo di stare al mondo e che porta con sé un'idea diversa e relativamente recente e fragile della libertà femminile. Quindi è una donna che in maniera, e c'è molta autoironia nei confronti di questo personaggio, perché in maniera talvolta eccessiva, quasi io la prendo in giro teneramente, però è importante non prendersi sul serio e non apparire vittime. Ecco, questo vorrei dire, che è molto molto importante, che è molto importante fare iniziative, più ce ne sono e meglio è, sul tema della violenza contro le donne, ma è molto importante anche, proprio per affrontare e per combattere il tema della violenza, fare dei racconti invece di forza delle donne e di e che trasmettano autostima. Autostima, questo, sì. Questo è indubbio. Le chiedo rapidamente due giudizi. Il primo, in questi giorni mi ha molto colpito la storia di quella ragazza che al processo contro il fidanzato che le ha fatto veramente del male, sì. Continua a difenderlo. È un amore malato, ma nonostante tutto quello che diciamo in tutti i programmi TV, anche al cinema, gli amori malati resistono. Che bisogna fare per estirparli? Guardi, questa, che ci sia malato, pur non essendo io né una esperta, per carità, né una nessuno di noi lo è, ma insomma, se uno, di ti, se uno cerca di ammazzarti, forse certo, ecco. Certo. Però per chi di noi ha parlato magari molto interessante con le operatrici dei centri di accoglienza, i centri antiviolenza, le persone che lavorano veramente direttamente a contatto con questa realtà, si vede che è un, sono casi abbastanza frequenti, cioè come dicevo all'inizio c'è una forma di se no sarebbe semplice, certo. Ecco, l'ultima cosa che invece le voglio chiedere, Francesca Comencini è anche la regista della terza stagione di Gomorra, di cui ha diretto 6 dei 12 episodi che vedremo. Siccome è piuttosto raro che ci sia una donna alla regia di una serie TV e poi una serie TV bella, solida, diciamo, come Gomorra... Com'è andata e secondo lei c'è qualche pregiudizio? Negli Stati Uniti no. Vedo che ci sono molte registe donne in serie anche di grande successo. In Italia comincia a cambiare un po' la cosa? Beh, sì, sta cominciando a cambiare. Non fosse altro che questa mia presenza proprio alla direzione ormai in maniera totalmente paritaria con colleghi uomini di una serie così enorme, così importante anche dal punto di vista economico, proprio la serie più grande che ci sia dal punto di vista, parlo economico, non mi permetto di dire dal punto di vista artistico, e così apparentemente nei cliché poco femminile dimostra che non c'è un campo di giochi per le registe donne e tutto il resto per i maschi. Io ne sono molto orgogliosa, lo dico sinceramente, sono orgogliosa dei personaggi femminili che ci sono e che sono state assolute protagoniste finora delle 3 stagioni. E spero sinceramente, io no, sono lì a fare quel lavoro non per merito solo mio, ma per merito di tutte le donne, le registe che hanno aperto una via prima di me, e spero a mia volta di portare dietro di me tante giovani colleghe per le quali il mondo del cinema diventi un pochettino più amico. Ecco. Grazie a Francesca Comencini, buona domenica e andiamo a vedere Amori che non sanno stare al mondo e ridiamo un po' anche di noi stesse. Esatto. Buona domenica, grazie. Grazie. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta. Noi continuiamo a parlare di violenze nei confronti delle donne. Le molestie sul lavoro esistono in tutti gli ambienti lavorativi ed è bene a questo punto fare chiarezza su che cos'è una molestia a sfondo sessuale, che cos'è una semplice avance, quanto può essere sgradita. Io vorrei in questo senso fare chiarezza soprattutto non soltanto sui termini ma anche sui contenuti, sulle conseguenze che una molestia può portare, e lo vorrei fare con la professoressa Marzia Barbera, ordinario di diritto antidiscriminatorio ed ex consigliera nazionale di parità. Buona domenica, professoressa. Buona Barbera. Buona domenica a voi. E con Carlo Capè, amministratore delegato e cofondatore di Business Integration Partners, una multinazionale di consulenza, e presidente di Confindustria Asso Consult. Buona domenica. Buongiorno. Eccoci. Allora, professoressa Barbera, intanto diamo un senso alle parole. Come si può definire una molestia e qual è il confine tra molestia e una semplice avance. Sì, io penso che anzitutto stiamo parlando delle molestie sul luogo di lavoro, quindi in genere non si parla di comportamenti che arrivano a essere veri e propri reati. Questa è una prima definizione da dare. Le molestie sul piano penale sono una cosa, le molestie sul piano dei rapporti di lavoro non necessariamente hanno una forma così grave da arrivare a costituire dei reati. Per lungo tempo noi non avevamo una definizione di molestia, adesso ce l'abbiamo ed è contenuta nel codice delle pari opportunità. È una definizione che viene dal diritto dell'Unione Europea. E la cosa importante è ci dia la definizione. Gliela do. Allora, la molestia è un comportamento indesiderato, questa è la prima cosa importante, quindi il punto di vista è quello di chi subisce una molestia, sì, non di chi pone in essere il comportamento e magari pensa di essere spiritoso o galante, quindi è un comportamento indesiderato che può avere lo scopo, ma a volte è anche un comportamento che non è voluto, non vuole avere questo scopo ma lo raggiunge, e lo scopo è quello di violare la dignità della persona oppure di creare un clima che può essere intimidatorio oppure ostile o degradante o umiliante o offensivo. Questa è la molestia ambientale, questo è il concetto di molestia. In particolare le molestie sessuali sono quelle che hanno a che fare proprio con un comportamento di natura esplicitamente sessuale. In generale invece le molestie sessuali sono tutti comportamenti correlati al sesso, si è molestati in quanto donna. In questo la differenza caso. Con l'avance. Ma lei pensa veramente che sia così difficile? non ha a che fare con la galanteria, la molestia sessuale, ha molto a che fare con la violenza vera e propria, di potere, ecco. Una situazione di potere, quindi il contesto dice molto. Posso farle tre esempi, poi lei mi dice sì. Se... No, tre esempi flash e poi andiamo dottor Capelli. Allora, le racconto tre cose che mi sono state raccontate, appunto, quindi esperienze reali. C'è una mia collega che insegna ingegneria, arriva a una riunione in cui bisogna discutere di un progetto europeo, lei arriva con le sue proposte, si siede, c'è il capo progetto che la guarda e le dice: che belle gambe che hai. Che cos'è secondo lei questa? Secondo lei? Non secondo me. No, sto chiedendo a lei. No, le domande le faccio io. Secondo lei che cos'è? Ah, le domande le fa solo lei. Secondo me in questo caso è una molestia. Un mio collega mi incontra in un corridoio e mi dice: ah, oggi sei particolarmente bella. Questo per me non è una molestia. Neanche secondo me. È un complimento. Una magistrata conduce un'indagine e la conduce a buon fine, va dal suo capo, il capo dice: ti muovi molto bene. Lei dice: sì, in effetti, sai, ho fatto un'esperienza molto significativa in Sicilia. No, io intendo dirti che ti muovi molto bene quando ti muovi. Questa che cos'è? Per me è una molestia. È una molestia. Sì, molto chiaro. Grazie, professoressa. Vado dal dottor Capè. Intanto vorrei chiederle se condivide questo punto di vista, la differenza tra molestie e avance fatte dai tre esempi che ci ha citato la professoressa Barbera. Ma guardi, io posso dire che sono un po' più restrittivo, per cui per me non è molestia, magari la parola molestia è un po' pesante, ma è una questione anche di etica, e io nel mio ufficio non vorrei che una persona in corridoio facesse, diciamo, galanteria verso colleghe. È una questione etica, dopodiché è ovvio che non è una molestia, ci siamo di fronte a delle cose molto più pesanti che sono state raccontate in questi giorni, quindi non mi permetto di dare delle valutazioni, nel mio ufficio non lo vorrei. Senta, ci sono società internazionali che in queste settimane stanno licenziando grandi boss perché arrivano delle denunce di molestie sessuali da parte di loro dipendenti. Le chiedo molto brutalmente, è un sistema per disfarsi di gente che è sgradita? Cioè, la molestia sessuale può essere usata da una multinazionale per far fuori un boss che aveva fatto il suo tempo? No, non credo. Guardi che all'estero, e noi abbiamo a che fare con tantissime società estere, la molestia è una delle cause normalissime di licenziamento, ma arrivano a licenziare anche per delle parole di apprezzamento in un corridoio, cioè sono estremamente più rigidi di noi e lo fanno anche con persone che hanno un valore per l'azienda in quel momento che va al di là di ogni pensiero che possa essere stata una strumentalizzazione. Quindi io credo che ci siano dei limiti nel mondo legato alle leggi, alle normative, però quando si supera il limite è corretto licenziare una persona. Ecco, vorrei proprio capire dalla professoressa Barbera quando si supera il limite. Cosa prevede la giurisprudenza? Possiamo però definire un po' più precisamente questi codici etici, questi comportamenti. Cioè, vogliamo dire che nei luoghi di lavoro ci sono le molestie perché c'è sessismo, e fino a che non cambia il sessismo, si può anche licenziare il singolo dirigente, ma non è che cambi molto. A me mi ha colpito che la reazione del vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, a tutta la vicenda, che vi ricorderete anche voi, mm-hmm. no? Di Wallenstein, eccetera, sia stata, dice, io la mia regola è di non restare mai solo con una donna. Beh, non è d'aiuto questo, perché la società americana continua a essere permeata di sessismo, è lo stesso da noi, quindi non è che tracciare una linea rigorosa tra lavoro e socializzazione, come fanno molte multinazionali, sia d'aiuto, fino a che non cambia proprio la cultura. È un cambiamento profondo quello che è richiesto. Se non c'è questo, mi spiace, ma i codici etici servono a poco. Ecco. Capè, è d'accordo? Ma io devo dire che il nostro settore, quello della consulenza, di management, è un settore abbastanza fortunato, perché abbiamo un'età media di 33 anni proprio a livello di settore. Io sono il presidente, diciamo, dell'associazione delle società, sì. E uomini e donne sono abbastanza mischiati bene, diciamo, abbiamo una media a livello di settore del 40% di donne. E conseguentemente nascono relazioni spontanee nelle società, ma non si va mai oltre, non si arrivano mai ad avere questo tipo di problemi. No? Perché i giovani hanno un'attitudine diversa, lei dice? I giovani con una certa cultura hanno un'attitudine sicuramente diversa. Poi c'è un altro fatto, che nelle società di consulenza le persone non sono stanziali, ma girano, vanno dai clienti, vanno all'estero, e quindi non si fermano mai per po' di tempo in uno stesso posto, quindi non si possono neanche creare tanto le situazioni di cui parlava la professoressa. Però il potere a ogni età crea una forma, come dire, di potenziale ricatto. Io penso al caso di Fausto Brizzi, che è un regista quarantenne, mica sessantenne, non può appellarsi, come ha fatto Harvey Weinstein, al fatto che viene da una cultura degli anni 60 e 70. Eppure è accusato da alcune attrici di aver voluto esercitare il suo potere di regista. Quindi chiedo a tutti e due, siamo in chiusura, più che una questione di età o di educazione, non è una questione di potere che in quel momento un maschio esercita nel modo più antico del mondo? Professoressa Barbera e poi il dottor Capè. Sì, io voglio solo citare i numeri di una ricerca Istat, perché si fanno poche ricerche in Italia sulle molestie sessuali, ma qualcosa si sa. Questa ricerca del 2008 fatta dall'Istat dice: la violenza avviene per lo più ai piani alti degli uffici, cioè sono le donne quadro e dirigenti d'azienda le più esposte a rischi e ricatti a sfondo sessuale, perché sono nella posizione di poter fare carriera ed emergere. La loro ascesa dipende per lo più da un top manager che è maschile. Quindi purtroppo l'immagine che disegna questa ricerca è un po' diversa da quella che ci disegnava lei qualche secondo fa. Ecco, Capè, in chiusura, il potere è un alimentatore delle molestie sessuali? Io sicuramente sì, nell'immaginario collettivo, e anche purtroppo nella realtà, e conseguentemente sta nell'etica delle persone a non sfruttarlo. Quello che voglio dire, ancora una volta, non per sempre apparire come il settore più miracoloso, è il fatto che dove le organizzazioni sono piatte, dove le organizzazioni sono organizzazioni per progetto, dove le valutazioni e le promozioni si fanno esclusivamente sul merito, con tavole rotonde di tante persone e con votazioni, questi rapporti influiscono pochissimo sulla carriera, e conseguentemente sia chi lo esercita sia chi lo subisce sono molto molto frenati, e queste cose accadono veramente in maniera molto rara in questi settori, che non è solo il mio, sono tutti i settori, certo, anche quelli nuovi dove la discrezionalità pesa di meno e il merito punta di più. Grazie ai nostri ospiti, alla professoressa Barbera e al dottor Capè, che sono stati con noi questa domenica. Grazie a voi. Grazie. nessuna è perfetta. Eccoci, bentornati a Nessuna è perfetta per l'ultima parte della nostra puntata. Come sapete è il momento della nostra coach. Bentornata e buona domenica Carla Ciani. Carla, buona domenica Maria, buona domenica a tutti. Per tutta questa puntata abbiamo parlato di violenza e di molestie sul luogo di lavoro. Sappiamo bene, ce ne hanno parlato anche i nostri esperti, che la molestia implica un disagio in chi la riceve, e quindi il punto principale è come viene recepita dalla persona che si sente molestata. Spesso è legata alla paura di dire di no e di perdere il lavoro. Tre pillole su come agire in questi casi. Allora, permettimi Maria di fare un distinguo riguardo anche la tipologia di molestie nell'ambito lavorativo, nel senso che possono avere una consistenza diversa nei vari livelli gerarchici, no? Come se permanesse ancora una differenza blu e bianco riguardo le molestie. Mm. Cioè, risalendo i livelli gerarchici, diventano più sofisticate, più allusive. Nei livelli operativi le molestie purtroppo sono più esplicite e tangibili. Facciamo due esempi. Un grande amministratore delegato di una grande azienda è invece il capufficio di una piccola sede di un supermercato. Diciamo che il livello più alto gerarchico ha delle conversazioni un pochino più sofisticate, spesso viene rilasciata una confidenzialità, viene richiesta una confidenzialità, vengono formulate delle domande negli ambiti più personali, no? E poi da lì magari si passa all'utilizzo strategico di determinate informazioni per poi arrivare a delle richieste più pesanti o delle insistenze davvero magari insopportabili, no? Continue, proprio usufruendo anche di una serie di informazioni e di appunto... Per farci capire, cominciano col chiederti se sei fidanzato o sposata, e poi ti offrono un weekend di lavoro. Se dopo tanti anni di matrimonio sei ancora felice, o come va, come pensi che possa essere insomma l'attività sessuale dopo i 40 anni, o se a 25 hai già avuto tutte le tue, insomma così, no? E per poi utilizzare insomma le informazioni e anche soprattutto una confidenzialità che viene nei primi istanti magari concessa in buona fede, mentre abbiamo purtroppo, e qui consentimi perché insomma nei livelli operativi ci sono ancora... Che cosa significa i livelli operativi? I livelli operativi diciamo fabbrica, diciamo... Sì. L'ambiente così più operaio, no? E lì c'è davvero ancora il gesto volgare, il commento sul corpo che ogni giorno moltissime donne sanno di dover subire, no? E queste molestie lì sono accettate come regole comportamentali implicite purtroppo, e in quei livelli la paura di essere sostituite facilmente, magari avendo anche un contratto precario, fa entrare le donne in una vera propria spirale. Diamo un consiglio a queste ultime, perché spesso sono giovani donne al primo gradino di un lavoro, come giustamente dicevi, precario. Se tu sei in fabbrica e sei con un contratto a termine e il tuo capo intermedio ti mette una mano sul sedere, tenuto conto che magari si tratta di una piccolissima comunità e non ci sono nemmeno i sindacati a difenderti, tu che puoi fare? Allora, tu puoi davvero alzare un pochino il rischio, devi farlo. Non accettare per esempio la banalizzazione, no? Magari purtroppo questa arriva anche dalle da chi ha un'anzianità maggiore in azienda, dalle donne che hanno un'anzianità maggiore. Che ti dicono, ma sì, ma che vuoi che sia? Cosa non farci caso. Ma dai, ma non vedi, poverino, no? E se la cosa veramente dopo magari una prima, un primo atteggiamento si ripete, se si ripete che tutto non è gradito, però qui direi proprio che la prima pillola, se vogliamo dire così, è per le aziende, quindi questa persona deve comunque comunicare all'interno dell'azienda che il comportamento che trova nel suo posto di lavoro non è appropriato, non è appropriato. Bene. Poi, seconda pillola, cosa possiamo dire? La seconda pillola è che come dire, ha una funzione un po' di prevenzione. Dobbiamo essere così nelle nostre relazioni attente a leggere i comportamenti e comprendere, appunto, come dicevamo prima, qual è magari la vera motivazione della confidenzialità che ci viene richiesta. E quando ci rendiamo conto che magari abbiamo dato confidenza in buona fede e siamo interpretati in modo diverso, bisogna chiarire direttamente con la persona. Bene, terzo punto. In maniera diretta del proprio disagio e anche far capire che magari non vogliamo perdere i contenuti buoni della relazione, no? E decidere insieme come possiamo andare avanti. Una frase, siamo in chiusura perché dobbiamo proprio chiudere. La frase chiave con la quale una donna fa capire al proprio interlocutore che un conto è raccontare di essere fidanzata e sposata, un conto è dargli confidenza. Una frase che potrebbe essere, come dire, la chiave per non essere non essere sgradevoli, ma essere chiare e nette. Senza sì, una frase potrebbe essere: caro Mario, io sono davvero felice di avere un rapporto così chiaro e diretto con te per poter parlare anche delle mie questioni personali, come anche tu probabilmente fai, e questa cosa ha un valore, è importante per me, soprattutto perché sono certa che non ci siano altre strategie da parte tua e che il nostro rapporto non sia compromesso magari da interpretazioni diverse. Molto bene, io mi fermerei qui. Ringrazio la nostra coach Carla Ciani per le sue preziose pillole e auguro a lei e a tutti voi che ci avete seguito buona domenica. Grazie Maria. Grazie. Buona domenica a tutti.